ora in onda, qua e là, tra una novità e l'altra. 12 marzo 2012, una mattinata interamente in diretta dedicata alle amministrative e non solo della città di Cefalù ma anche della città di Castelbuono. Come ho avuto modo in queste domeniche di ripetere, questa trasmissione li condurremo invitando ospiti che possono parlare delle amministrative o perché direttamente interessati in quanto candidati, e qua noi abbiamo due candidati al sindaco, uno del comune di Castelbuono, e salutiamo Giuseppe Norata, uno dei tre candidati al sindaco, ma adesso ci arriveremo, un candidato a sindaco per la città di Cefalù, Mauro Caliò. Il dottore Giuseppe Guercio ha fatto sapere che è impossibilitato a raggiungere la sede di CRM, noi ne prendiamo ovviamente atto, e poi una voce indipendente, Giuseppe Spinosa, Peppino per gli amici. Peppino, grazie per esserci. Come già è avvenuto domenica, abbiamo Cerrito pure presente in trasmissione. Ciao Cerrito, siccome ti ho visto nascere e crescere, a volte sai, ti lascio un pochino da parte, ma non è così e tu lo sai. E dobbiamo pure, come è stato ed è successo domenica scorsa, aspettiamo un ospite, lo dico perché avremmo il piacere di conoscere anche qualche altro candidato a sindaco, quindi mi auguro che in mattinata si possono anche... Uno dei nove già... uno ovviamente, mi riferivo questa volta alle amministrative cefaludesi, Mauro. E comunque ricordo al radioascoltatori quello che ho avuto modo di ricordare domenica scorsa, che il nostro numero è 0921 923292, ripeto 0921 923292. Chi desidera intervenire alla trasmissione con un proprio pensiero, ovviamente ci dobbiamo contenere nei tempi, o perché desidera fare qualche domanda, noi qua siamo disponibilissimi ad ascoltare. Iniziamo, come dicevo prima, con Giuseppe Norata. Io ho la rassegna stampa della settimana, i quotidiani sono veramente interessati, dati momenti particolari e delicati, alle vicende che riguardano le amministrative del 2012. Salutiamo anche diciamo l'altra candidatura, quella di Emanuele Cusimano, il quale sicuramente, e qua ci riferiamo alle amministrative di Cefalù, in una prossima trasmissione sarà ospite appunto di CRM. Ma portiamoci con Norata a Castelbuono. Guarda, io quando ti ho visto in foto qua nel Sicilia di martedì 7 ho detto: Giuseppe è in campo da sempre, perché sei sempre stato attivo. Da questo punto di vista un attivista. Adesso dovrai vedertela con Antonio Tumminello, con Stefano Polizzotto, che noi salutiamo e che avremo anche prossimamente in trasmissione. Io inizierei subito con una domanda che rivolgo a te, Giuseppe, scusate se confidenzialmente ci diamo del tu, ma insomma ci conosciamo, io capisco che sono in trasmissione, dovrei appunto utilizzare un atteggiamento di distacco, ma così non è. Ecco, rivolgo la domanda a te e a Mauro Caliò, per quanto riguarda queste primarie. Giuseppe Norata l'ha vissuto sulla sua pelle, a Castelbuono ci sono state le primarie che poi hanno portato al passaggio di uno dei candidati, Mazzola mi sembra, che dopo le primarie ti ha salutato e se n'è andato in altro lido. Giuseppe. Ma lo strumento delle primarie sicuramente è uno strumento democratico, partecipativo, ma che oggi, anche l'esperienza di Palermo lo testimonia, ha bisogno di sicuramente dei correttivi. Correttivi che vanno ricondotti a quella che era l'origine. È l'espressione del pensiero di un partito, di una coalizione. Per cui chi realmente è iscritto in quel partito o è accreditato in quella coalizione deve esprimersi, altrimenti è distorto il risultato con tutto ciò che ha comportato. Io ritengo comunque che nelle primarie ognuno assume degli impegni e se gli impegni hanno un valore vanno mantenuti, viceversa non rispondiamo nemmeno più delle nostre azioni e perdiamo di credibilità nei confronti anche dei cittadini che sono venuti liberamente a esprimersi con il proprio apporto e il proprio contributo. E tradirli significa tradire la democrazia, tradire un pensiero democratico che ha un suo valore, a mio avviso. Ecco, Mauro, la domanda è uguale anche per te. Tra l'altro abbiamo l'esperienza di Palermo, che non è l'unica esperienza di una città metropolitana, ma anche in altre città, dopo le primarie è successo di tutto e di più. La domanda anche è collegata ad una trasmissione che io ho condotto, eri presente tu, era presente Rosario Lapunzi, un altro candidato al sindaco. Si parlava di primarie e Rosario Lapunzi ha detto no, noi il candidato è stato individuato, quindi non riteniamo opportuno, ecco, andare a procedere. Io ringrazio il vice direttore di Cefalù News, che è sempre presente e attivo, e porta ulteriormente le immagini fuori dallo studio, perché noi non siamo solamente in audio ma siamo anche in video, e fa pure piacere che nei giornali telematici ci sia per adesso questa presenza serrata non solo dei vostri volti ma soprattutto delle vostre parole. Mauro Caleo. Allora, in effetti lo strumento delle primarie nasce come metodo di consultazione ampiamente democratico per tentare di appianare quelle che possono essere le divergenze e tentare di costruire un progetto più condiviso che possa appunto portare poi a una coalizione basata su un progetto comune. Evidentemente si stanno dimostrando non troppo efficaci, questo purtroppo dispiace apprenderlo. Condivido l'idea e il pensiero che forse purtroppo si stanno dimostrando tali, perché chi accetta di giocare con questa regola non lo accetta fino in fondo, evidentemente. Io per primo sono d'accordo e sono convinto che una nuova politica, una politica seria che realmente ha la città al centro, debba riscoprire il valore della parola, che ahimè cominciamo a pensare che vacilli un pochettino. Gli impegni si prendono e vanno rispettati, si può cambiare posizione, opinione, d'accordo, ma nel momento in cui si decide di sedersi a un tavolo e giocare con determinate regole è troppo comodo poi scompaginarle successivamente. Esatto, cioè già in qualche modo comunque dà dimostrazione, l'atteggiamento con cui una persona, un candidato si pone nei confronti di questo strumento già dà un'idea di quale sarà poi il suo comportamento nell'amministrare la cosa pubblica, perché un amministratore, un sindaco che poi prenderà degli impegni con la città, se ha rispettato un impegno anche preelettorale, la città gli potrà dare sicuramente fiducia. Se già si parte con davanti una persona che poi non rispetta tanto le regole, già mi metterebbe un po' in crisi come cittadino. Per quanto riguarda Cefalù, vabbè, è un discorso ormai chiuso. Si è fatto il tentativo di giungere a un progetto unitario attraverso questo strumento per varie ragioni che non è il caso continuare a tirare in ballo. Non siamo riusciti ad arrivare a questo appuntamento, forse perché magari si temeva che potessero essere inquinate, che potessero portare a un risultato non realmente democratico. È un dispiacere, però d'altronde anche questo fa parte della democrazia. Ai cittadini resta il voto del 6 e 7 maggio, col quale volendo potranno esprimere realmente la loro opinione. Speriamo che lo facciano con consapevolezza e coscienza. Se passi il microfono al tuo, perché lui è sempre con te, c'è il rito, e questo è un fatto interessante, bello. Le notizie che sono arrivate da Palermo sulle primarie, ecco, come le hai vissute? Io con tanta amarezza, lo dico affettuosamente, perché quando scendono in campo dirigenti di cui che hanno fatto della legalità il loro campo di battaglia, e adesso si riscontrano intanto alcune anomalie, chiamiamole anomalie, non facciamo sentenze, le sentenze, ecco, non diciamo altro, senza nulla togliere per carità a Ferrandelle, perché tra l'altro sicuramente avrà una base di elettorato, perché per arrivare a quel punto, e poi una persona dove forse chi vota adesso vuole puntare veramente sul cambiamento, perché ecco, come hai vissuto questo momento? Ma sicuramente le primarie tenutasi a Palermo, un attimino, ne abbiamo parlato poc'anzi, sono, dispiace un attimino a tutti, un po' gli elettori, perché queste presunte innanzitutto irregolarità sul tema proprio del voto in se stesso, chiaramente non è bello per nessuna delle parti politiche in campo. Dopodiché, non avendo, a quello che si evince, raggiunto tutti insieme un progetto politico, probabilmente andranno incontro a, come dire, delle situazioni magari non troppo favorevoli nel momento proprio delle votazioni, ecco. Giuseppe Spinoza, ecco, intanto io ti ho invitato come voce libera, come cittadino di Cefalù, mai un passato politico, perché hai militato in Italia dei Valori. Ecco, ci puoi fare una brevissima storia di questi passaggi per poi arrivare all'attualità, perché desidero anche il tuo pensiero su come su questi candidati, su queste liste che dall'oggi al domani prolificano come se niente fosse. Ecco, Peppino. La storia l'hai fatta tu, di fatto, perché dopo un'intensa attività con Italia dei Valori che è durata 3-4 anni, che mi ha dato anche delle belle soddisfazioni, veramente devo fare un passo indietro. Inizio la mia attività politica con la candidatura nella Margherita alle provinciali nel 2003, diciamo legato a Orlando sempre. Successivamente c'è stato il passaggio di Orlando all'Italia dei Valori dopo la rottura che si è consumata con la Margherita di Rutelli e poi anche con il Partito Democratico, e sono passato con Italia dei Valori, con cui sono rimasto fino a un paio di anni fa, quando non ho più condiviso il progetto, e allora mi sono defilato, così, pur facendo parte di una certa area politica, naturalmente, perché poi ero collocato in quella posizione perché il mio pensiero mi portava, la mia convinzione mi portava a essere collocato in quella posizione. A quel punto ho preferito non aderire più a partiti costituiti e così spendere il mio impegno anche da indipendente. Ecco, ora ci ritorniamo ovviamente sull'argomento, ascoltiamo intanto la voce di Castelbuono, che in questo momento è rappresentata da Giuseppe Onorato. Giuseppe, prima così un semplice pensiero ce lo togliamo davanti e andiamo avanti. Arrivato a un certo punto a Cefalù si è fatto il nome di Cicero, che noi salutiamo affettuosamente, perché al di là dei meriti è una figura veramente, come persona, eccezionale. Io ho il piacere di conoscerlo da tantissimi anni. Cioè, non pensi che Mario ha la sua collocazione politica, la sua presenza a Cefalù, proprio a livello di politico, persona di sinistra conclamata nel tempo, avrebbe pure potuto nuocere i candidati di sinistra? Qua ce n'è uno, perché penso che, ecco, Giuseppe, tu mi puoi dire, chiediglielo a lui, ma io lo chiedo a te. Io, conoscendo Mario, è chiaro che esprimo il mio pensiero, però sì, come intendo il comportamento di Mario. Credo che l'orientamento di Mario non è stato mai concentrato sul fatto di candidarsi o meno a Cefalù. Mario voleva dare un contributo per animare il dibattito politico a Cefalù, nella consapevolezza che la centralità di Cefalù nello sviluppo delle Madonie è fondamentale per tutti quanti, perché credo, e io ne sono anche io fermamente convinto, le Madonie da soli, senza Cefalù, non hanno dove andare. E allora concentrarsi sui problemi di Cefalù per dare slancio alla politica e evitare anche le beghe che ci possono essere tra i partiti o tra le persone all'interno degli stessi partiti, significava dare un contributo al dibattito politico per dare delle prospettive concrete a Cefalù. E credo che l'orientamento di Mario era proprio questo, animare il dibattito politico. Perché quando è sceso in campo con delle dichiarazioni, scendeva su tematiche specifiche dello sviluppo e della centralità di Cefalù sulle prospettive da dare alle Madonie. Non erano altre che questo. Penso che la volontà di candidarsi realmente a Cefalù non ci sia mai stata, se non forse in qualche fascia di persone della società civile di Cefalù, che con le uscite di Mario magari sognavano magari una candidatura di Mario, ecco, questo sì. Parliamo adesso della tua candidatura, perché sicuramente sarà una competizione molto interessante e molto intrigante, anche nel rispetto degli altri due candidati, perché sia Antonio Tumminello sia Stefano Polizzotto sono due candidati che scendono in campo e possono parlare alla gente. Scusa se mi esprimo in questi termini, ma oggi la gente deve cominciare veramente ad essere cosciente e consapevole verso dove vogliamo andare. E parliamo della tua candidatura. Sei arrivata a questa candidatura perché ci sono state le primarie, e le primarie sono state vinte da te. Poi le discussioni sono inevitabili, l'abbiamo detto prima. Però per quanto riguarda questa tua candidatura, ormai ha dei punti fermi, iniziando da un laboratorio di lavoro. Io ho letto questo: state raccogliendo i bisogni della cittadinanza per farli propri, per procedere alla stesura di un programma che già avete nelle linee generali. Ma un'altra cosa interessante, leggendo il giornale di Sicilia, che già si cominciano a fare nomi degli assessori e si punta, lo ripeto, anche su persone che magari la loro esperienza la vivranno per la prima volta. Sì, io voglio fare però un passo indietro, sì, perché è giusto dare agli ascoltatori le dovute conoscenze su quelle che sono state le motivazioni della mia disponibilità per un servizio alla città di Castelbuono, alla mia comunità, alla comunità che mi ha visto nascere, che mi ha visto crescere, che mi ha formato e che mi ha dato tanto. Io ho avuto un momento di sofferenza prima di decidermi a dare la disponibilità, perché come voi sapete io sono particolarmente impegnato professionalmente anche nella gestione di una problematica alquanto difficile, che è quella della gestione dei rifiuti in 16 comuni, e quindi in un momento particolare in cui cambia il sistema di gestione in questo settore, decidersi di lasciarlo per dedicarsi totalmente al servizio della città di Castelbuono diventava difficile. E non ultimo anche il problema del familiare, che chiaramente avendo figli in una fascia di età adolescenziale, lasciarlo o quantomeno distaccarsi un poco, perché fare il sindaco a Castelbuono come in ogni altro comune significa farlo a tempo pieno, e a tempo pieno non significa dalle 8 alle 14 ma significa H24, con un impegno totale senza e gratuito, significa veramente tanto. Quindi un momento di sofferenza prima di decidermi, prima di dare la disponibilità. Ecco, superato... Giuseppe, scusa, puoi fare una tua scheda tecnica? Non l'ho voluta fare io, proprio ti puoi presentare, perché queste trasmissioni per adesso hanno questa finalità: far conoscere i candidati con le loro potenzialità, con i loro limiti, perché guai se non parlassimo anche di questo, per carità, con le proprie competenze. E poi parliamo, perché tu hai toccato dei punti ben precisi che riguardano l'ambiente, la cultura, l'artigianato e la solidarietà sociale, quindi sono punti che vanno sviluppati. E poi diciamolo pure, l'eredità che prendi non è delle migliori, perché Castelbuono insomma in questi anni ha avuto uno sviluppo notevole. Che poi i comuni sono senza soldi, questo è un fatto, ormai sta diventando allo stato attuale normale, vediamo poi come recuperare. Certo. Prego Giuseppe, ecco proprio la tua scheda, puoi dire anche l'età, così. Sì, io ho 53 anni, non sono una donna, quindi non occorre nascondermi. ma di questa età mia ne vado pienamente fiero, perché sono 53 anni veramente vissuti intensamente sia nella professione sia nel sociale. Provengo dal mondo cattolico cristiano, sono stato parecchio impegnato da giovane e anche da sposato nella mia parrocchia a Castelbuono. Sono cresciuto professionalmente nel mondo informatico, inizialmente con una società privata, poi ho costituito delle mie società che tuttora lavorano su Palermo, sia nel campo informatico che nel campo telematico. Poi sono entrato all'università da semplice tecnico informatico e sono diventato oggi, sono vice dirigente dell'area tecnica informatica all'Università di Palermo, part time, anzi molto part time, perché nel tempo ho preferito in maniera giuridica anche correttamente, doverosamente nei confronti del mio datore di lavoro università e per etica e deontologia mia, mettermi part time e curare anche le mie società di informatica. Nel contempo sono stato investito di questo incarico della gestione della cosa pubblica in un settore difficile, che è quello della società dei rifiuti, nei 16 comuni del Lato, che dove credo di avere fatto discretamente, non dico bene perché si poteva fare di meglio se le risorse fossero state diverse, però in campo regionale ci siamo distinti. Per dire due numeri, i nostri bilanci sono in equilibrio, tutti approvati. La nostra raccolta differenziata ha raggiunto risultati discreti, io li definisco tali, nei dipartimenti regionali rifiuti ed acque li definiscono eccezionali, perché nel 2011 abbiamo raggiunto su media d'ambito il 30% di raccolta differenziata. Gli asinelle ci sono sempre. Gli asinelle ci sono sempre. E ci hanno fatto conoscere nel mondo. Il mondo. Ecco. E dobbiamo dire, perché è giusto e doveroso richiamarla, perché non possiamo continuare a crescere con il nostro tenore di vita se non un attimo ci fermiamo e ragioniamo, anche a costo di fare dei passi indietro nel nostro modo di vivere. Gli asinelle per certi versi hanno rappresentato questo, però per dare un numero consentono, in termini di emissione, di minore emissione in atmosfera di CO2, di risparmiare circa 6 ettari di bosco annui. 6 asinelli che girano nel centro abitato di Castelbuono perché hanno consentito di eliminare 2 mezzi alimentati a gasolio. Questi sono risultati che vanno detti. Ecco, io vengo da questo mondo e da questi risultati e oggi con questa esperienza, con questo mio modo di interpretare anche la mia professione, che è stata sempre servizio all'università, servizio alla società pubblica, che ho interpretato come società mia, come società da gestire, come da privato, mi propongo per amministrare Castelbuono. Sicuramente Castelbuono negli ultimi anni e negli ultimi 20 anni, perché il progetto parte dal 93, ha raggiunto risultati veramente eccezionali nel comprensorio e nel panorama siciliano dei comuni. Castelbuono oggi è conosciuta, non dico alla stessa stregua di Cefalù, perché Cefalù ha il suo fascino, ha il suo nome, però oggi è conosciuta veramente in tutto il mondo, non solo per gli asinelli, ma è conosciuta per quello che è stato fatto, per come è stata promossa nella nazione, nella regione, ma nel mondo intero, e per i risultati raggiunti nel campo dell'enogastronomia sicuramente, ma nel campo culturale, con la valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Castelbuono è stata si è fatto carico di trainare un po' le Madonie in questi anni, e se in questo senso riconoscere questi risultati, riconoscere il fatto che specialmente negli ultimi 10 anni sono arrivati fondi per quasi 100 milioni di euro su beni pubblici o su interventi pubblici, e riconoscere anche il merito che nell'arco di 5 anni l'apporto in termini di versamenti IRPEF è cresciuto di quasi il 50%, ciò significa maggiore ricchezza che circola nel territorio, significa riconoscere dei meriti all'amministrazione uscente. Io lo faccio volentieri, ma sicuramente ragionerò con la mia testa, non con quella di Mario Cicero, con cui riconosco tutti e ho condiviso questo percorso amministrativo. Io nel mio progetto che ho messo su... Scusami, prima del progetto, scusa se ti interrompo, prego, intanto prego. Ringraziamo Leo per i suoi scatti, perché qua anche sta... continuando quello che ha iniziato stamattina Giacomo Sapienza, quindi domani anche su Cefalù News o in giornata ci sarà questa ulteriore visibilità. Passiamo ai fatti e alle parole. Condivido pienamente un tuo passaggio iniziale. Oggi chi si propone, chi andrà a amministrare, si deve mettere in mente che deve seguire le vicende di una comunità H24. Non possiamo più assolutamente, anche per quel principio di sussidiarietà che spesso viene osannato, ma viene osannato in determinati momenti. Bisogna stare accanto ai cittadini, bisogna proprio ascoltare i loro bisogni, le loro esigenze e cercare di risolvere i problemi nel modo migliore possibile. Nel tuo programma hai sicuramente toccato dei punti importantissimi che riguardano la cultura. Non potremmo pensare una Castelbuono deprivata della cultura, non avrebbe assolutamente senso, perché anche noi cefaludesi guardiamo Castelbuono e le Madonie con tanto interesse. Mi dispiace quando non ci si riesce proprio a formare una rete di intenti e di interventi che possono, partendo da Cefalù, ma perché siamo vicino al mare, portare il turista proprio nelle nostre Madonie, nelle nostre realtà, ognuno con le proprie specificità. Guai a confondere i ruoli oppure le proprie radici e la propria identità. Ma c'è sempre un grandissimo rispetto. Ecco perché siete chiamati, voi candidata a sindaci, io poi le domande li farò a Mauro, ma anche a Giuseppe Spinosa, perché anche lui ha delle responsabilità come tutti coloro i quali andranno a votare a maggio. Ecco, in questo momento proprio avete focalizzato, avete dato una priorità agli interventi che desiderate porre in essere prossimamente in caso di elezione? Allora, noi partiamo forti da una conferenza programmatica che il PD ha realizzato a maggio già del 2011. Su quella base che ha dato le fondamenta anche all'avvio della mia candidatura e del programma che stiamo mettendo giù, stiamo costruendo un percorso condiviso. Personalmente, per realizzare questo programma, ho tracciato due direttive sulle quali ci stiamo muovendo e che danno il metro e la misura su cui andare a calibrare poi il programma. La prima in assoluto è la centralità dell'uomo. Io sposto l'attenzione allo sviluppo che si è dato al turismo, ai beni culturali, mettendo al centro l'uomo nella sua essenza e nel suo modo di vivere e di essere, perché è solo con la centralità dell'uomo che riusciamo a coinvolgere tutto il tessuto e il vissuto di Castelbuono, dove ognuno a qualsiasi livello, partendo dagli anziani al diversamente abile, al bambino, al giovane, ma al professionista e al tecnico, ognuno si può fare parte e carico di un progetto condiviso per realizzare la Castelbuono che vogliamo. Noi nel programma stiamo proprio disegnando la Castelbuono che vogliamo da qui ai prossimi 20 anni per rilanciarla per il futuro, ma partendo da un coinvolgimento dalla base. Abbiamo messo su i gruppi di lavoro, ci sono circa 60 persone che stanno lavorando al programma. Non è un programma di Giuseppe Norata. Giuseppe Norata ha tracciato le direttive su cui si deve sviluppare il programma, ma il programma lo stanno sviluppando tante persone, giovani in particolare, che hanno creduto in questa idea progettuale, su un documento politico che è stato condiviso pienamente e su cui stanno lavorando parecchio. Proprio in questo momento ci sono due gruppi di lavoro riuniti di domenica mattina. Chi lo fa fare ai giovani di domenica mattina andare lì? Eppure sta lavorando concretamente per realizzare il programma del sogno che vogliamo realizzare, della Castelbuono, principalmente la Castelbuono solidale, a qualsiasi livello. Perché nel tempo Castelbuono, forse magari a differenza di tanti altri comuni, si vive pienamente la solidarietà e il farsi carico del più debole. Nel momento del bisogno il castelbuonese è sempre presente e veramente farsi carico sulle proprie spalle, anche economicamente in certi momenti, di quello che è il bisogno di un suo concittadino. E abbiamo assistito anche negli ultimi anni alla possibilità che hanno offerto alcune famiglie di farsi carico per esempio del restauro di alcune edicole votive o piuttosto di alcuni affreschi e dipinti. Questo è il senso e la misura del programma che vogliamo dare, ma per metterlo dentro a un progetto organico, un progetto condiviso, un progetto che diventa del candidato sindaco Peppe Norata, che si propone ad amministrare Castelbuono a queste condizioni. Ecco, io prima di passare la linea alla regia, così ci fermiamo per qualche minuto, ricordo al radioascoltatore, CRM è seguita in audio e copre un raggio notevolissimo per quanto riguarda l'ascolto, poi in video siamo anche oltreoceano, quindi praticamente stamattina ci saranno anche telespettatori che dal sito seguono questa nostra intervista. Io ricordo, per chi desidera fare una domanda, se lo desidero fare qualche breve intervento, qua ci sono i candidati, c'è pure Mauro Galeò, col quale ovviamente al quale rivolgeremo domande, c'è Peppino Spinosa, col quale proprio si può parlare da voce libera e indipendente, quindi chiederò come vede lui tutte queste candidature, tutte queste liste, vediamo a cosa porteranno. Io ricordo il numero, che è pure in sovraimpressione, 0921 923292, e ricordo a coloro i quali ci seguono, perché capisco che per adesso ci sono coincidenze di orario, che questa trasmissione verrà replicata lunedì con inizio alle ore 13:15, ma sicuramente il nostro editore la manderà in onda anche durante la settimana, perché, come dicevo prima, le persone debbono essere informate, le persone debbono capire. Sono finiti i tempi, scusate se uso questo termine forte, del clientelismo, di quello che non ci ha portato a nulla, ma che dopo 20 anni ci sta facendo pagare con gli interessi quello che alcuni signori hanno fatto a qualunque livello. E quindi la cosa più interessante è quella, anche noi ci spendiamo, caro Giuseppe, di non far mancare la informazione. Poi ognuno vada a scegliere come vuole, ma sappia che ci sono persone e programmi, e ci sono anche a queste persone altre persone che debbono realizzare questi programmi, perché sono del parere che voi siete candidati a sindaci, Caleo è Norata, però se accanto a voi non c'è una squadra giusta e intenti giusti e persone giuste che si desiderano spendere veramente per la comunità, allora non abbiamo fatto niente, perché poi si va a finire in quelle beghe di bottega che oggi non servono più a nessuno. Fabio, ti ringrazio per essere in regia e ti passo la linea. Pubblicità. A Cefalù, al numero 66 di via Mandralisca, Caffè 66, food, drink e... Nel centro storico di Cefalù, vicino al Duomo, un locale per tutti. Atmosfera calda, accogliente e amichevole. Pub Caffè 66, food, drink, creperia, panineria, bruschetteria, wine bar, birreria, insalate e piatti tipici. Lo trovate anche in internet su www.caffè66.altervista.org. Caffè 66, al numero 66 di via Mandralisca, di fronte il museo. Il modo migliore per rendere felice una donna è regalarle un gioiello, un valore eterno, adatto a sigillare unioni profonde e inossidabili. Da Mineo Gioielli, le più preziose idee regalo proposte con professionalità ed eleganza, perché un gioiello è testimone di momenti memorabili. Mineo Gioielli, la preziosa artigianalità e l'eleganza di collezioni esclusive che fondono il freddo dei gioielli con il calore di sentimenti irripetibili. Mineo Gioielli, via Flavio Gioia 3, telefono 091 962 313 a Bagheria. Una tradizione che si trasmette nel tempo. Hobby Garden, piante ornamentali, piante da frutto e da orto, attrezzature agricole, hobbistica per giardinaggio, giochi d'acqua e accessori, programmatori e raccorderia per irrigazione, terrici universali, sementi per tappeti erbosi. Hobby Garden di Cova Salvatore, via Montessori Cortile 3, contrada Pacenzia, telefono 0921 92 17 51 a Cefalù. Hobby Garden vi ricorda i vivai Cova a Campo Felice di Roccella, manutenzione di parchi, giardini, residence, prati, contrada Pista Vecchia, strada statale 113, Campo Felice di Roccella, telefono 0921 428 927. Vivai Cova di Fabio Cova. La convenienza di acquistare da chi produce. In questo periodo offerte eccezionali. Motosega alpina da potatura 180 euro. Piante da frutto, ulivi e agrumi di prima scelta 5 euro. Triciclamini con vasi in coccio 10 euro. Ricordate, tutto da Hobby Garden e Vivai Cova. Che convenienza trovi da Hobby, insieme a tanta scelta e qualità. E fino all'11 marzo tutto a meno di 89 centesimi. Mozzarella Optimo da 100 grammi 39 centesimi. Passata di pomodoro Sicilsole da 680 grammi 45 centesimi. Schweppes da 500 ml vari gusti 39 centesimi. Hard Discount in Sicilia e Calabria. La spesa per tutti, di tutto e di più. Per la tua spesa c'è solo Hard. Mangiare sano ti aiuta ad affrontare meglio lo stress della vita quotidiana. Rivolgiti con fiducia alla macelleria Arcangelo Cipriano. Sulla tua tavola carni fresche, genuine e certificate provenienti da allevamenti locali. Vitello, agnello, carni bianche, capretti e polli. E se non hai tempo, macelleria Arcangelo Cipriano ti viene in aiuto proponendoti tanti preparati di vario genere. Macelleria Arcangelo Cipriano, via Umberto I 52 a Cefalù. Telefono 0921 42 10 99. Arredamenti curati e confortevoli, studiati in ogni dettaglio. Dal prodotto concepito per le esigenze di tutti a quello più esclusivo per soddisfare bisogni e desideri di ognuno. Arredi Madonia, mobili classici e moderni. Un vasto showroom con esposizione di 25 modelli cucine Lube, dove potrete toccare con mano la qualità di cucine innovative che propongono soluzioni per ogni tipo di spazio e per ogni esigenza. Madonia Vincenzo e Figlio, una grande realtà sempre legata al territorio, che propone mobili fatti di materiali importanti e resistenti, sinonimo di qualità e al miglior prezzo. Arredi Madonia Vincenzo e Figlio, quello del Ghirigoro Domo. Mettiamo al servizio dei nostri clienti oltre 40 anni di esperienza e ricerca. Piazza San Leonardo 7 a Castelbuono. Telefono 0921 67 67 31. Per la tua pubblicità su CRM, telefono allo 0921 423 456. Qua e là, tra una novità e l'altra, ecco, giustamente Leo presenta una sua scheda, perché oltre ad essere un collega, un operatore scolastico, anche se adesso a riposo, ma lui non si riposa perché, ripeto, grazie ai suoi click, ai suoi scatti, spesso abbiamo la possibilità di vedere situazioni, fatte e circostanze che avvengono non solo a Cefalù ma nel circondario. Giuseppe Norata, ecco, c'è pure una tua presentazione, una tua scheda ufficiale. Liquidatore di ecologia e ambiente, alias Ato. Ecco, Giuseppe, come siamo situati? Perché guarda, anche questo è un problema. Questo è un problema dei problemi in questo momento, perché il rischio di andare a finire in un calderone provinciale dove a dettare leggi sui rifiuti sarebbe la città di Palermo, con tutto lo scempio che c'è a Palermo, ancora non è stato dissipato questo rischio. Io personalmente e assieme ai miei tecnici siamo stati particolarmente impegnati, rimettendoci anche persone, perché per quello che siamo riusciti a fare l'assessore regionale ha voluto persone di Termini Imerese, della società che amministro, come responsabili e come soggetti attuatori dell'emergenza, come commissari per la gestione dell'emergenza rifiuti in Sicilia. Il mio ingegnere Michelon attualmente è il soggetto attuatore. Questo comporta un prezzo non indifferente per ecologia e ambiente, ma l'ho voluto pagare volontariamente proprio perché, per avere una possibilità in più, perché il nostro territorio possa essere salvaguardato da intrusioni esterne. Abbiamo fatto sforzi notevoli perché gli ambienti malavitosi non entrassero nel sistema di gestione dei rifiuti, perché riuscissimo a fare la raccolta differenziata bene su tutti i paesi. Adesso partiremo anche in maniera sistematica sul centro storico di Cefalù, e spero che sia la volta buona questa volta, perché deve essere una volta per tutti, senza possibilità di ritorno indietro, perché sono quelli i progetti che funzionano, progetti senza possibilità di ritorno indietro. Dicevo poco fa, nel 2011 siamo riusciti a raggiungere una percentuale di raccolta differenziata al 30% su scala d'ambito, che in Sicilia non si riscontra in nessun posto. La media regionale è ancora a una cifra che si avvicina sulle dita di una mano soltanto, parliamo del 4-5% su tutta la regione siciliana, per cui raggiungere il 30% su 16 comuni come media è un risultato importante. Raggiungiamo in alcuni comuni la media del 65% di raccolta differenziata. Castelbuono oggi ha avuto il coraggio, anche sotto elezioni, e che era una scelta anche impopolare per certi versi, il coraggio di togliere le postazioni periferiche, obbligando per certi versi, tra virgolette, i cittadini a portare il rifiuto differenziato su una isola ecologica che abbiamo aperto con un'ordinanza del sindaco. Questo è un dato perché ha consentito Castelbuono in questo momento a fare il salto di qualità, a raggiungere il 60% di raccolta differenziata. Perché c'erano purtroppo ancora alcuni cittadini, anche del centro abitato dove si fa il porta a porta, che non facevano la raccolta differenziata, conferivano tutto nell'indifferenziato, nelle postazioni periferiche, che spesso e volentieri diventavano vere e proprie discariche. E oggi un paese civile non si può permettere più di avere questi scempi per il territorio. Noi siamo obbligati a tutelare il nostro ambiente. Su questo non possiamo più rimandare il problema, non lo possiamo rimandare né a noi stessi né tantomeno ai nostri figli. E il problema ambientale veramente è un problema sociale che va affrontato di petto, al di là degli steccati politici di colore o dell'interesse elettorale. Io potrei anche perdere le elezioni, in questo momento preferisco più fare un intervento a tutela dell'ambiente che vincere le elezioni. Se il cittadino di Castelbuono lo capisce, questo è un vantaggio per tutti, non solo per gli elettori del centro-sinistra, ma anche per gli elettori del centro-destra, non solo per i figli degli elettori del centro-sinistra, ma anche per i figli degli elettori del centro-destra. Prima di tutto l'ambiente, poi può andare a amministrare chiunque, ma spero che anche i miei competitor abbiano la sensibilità dell'ambiente che sto cercando di avere io per i miei figli e per i figli di tutti quanti. Ecco, Giuseppe, noi ci avviamo alla conclusione di questo. Capisci nostro... bene che il problema dell'ambientale a me mi accalora. Non solo ti capisco, ma adesso diciamo pure, con Giuseppe ci conosciamo da tempo e ho avuto l'onore di dirigere la scuola di Castelbuono ai tempi del sindaco Ciolino, quando io ero assessore, e Giuseppe era assessore, quindi intanto un caro saluto sempre a Castelbuono e castelbonese ai quali sono rimasto legato per il modo col quale e per la fiducia che mi hanno dato. Del resto anche Campo Felice e Lascari mi sta facendo lavorare con molta serenità, e questo oggi è importantissimo nel mondo della scuola. Ecco, Giuseppe, tu dicevi 60 persone sono che lavorano, anche oggi stiamo portando avanti. Avete già individuato, chiamiamo la squadra che ti affiancherà? Ne state discutendo? C'è qualche situazione, perché poi è inevitabile, proprio perché non solo qua c'è gli assessori ma anche il presidente di consiglio, com'è la nuova legge elettorale, almeno da voi mettono in condizione se il sindaco al sindaco che sale di avere un numero rilevante di consiglieri nella lista, cioè la maggioranza che potrebbe proprio consentire di governare. Quindi sicuramente anche nella lista dovete stare attenti ai saltimbanchi. Non so se queste sono situazioni che state valutando, perché poi diventano veramente delle preoccupazioni notevolissime per realizzare un programma. Ecco, l'ultima domanda è questa: sicuramente di qua all'elezione del 6-7 maggio avremo modo di risentirci, sentiremo anche i tuoi colleghi candidati a sindaco. Ecco, in questo momento, oltre al programma, state parlando anche di... Non desidero aver fatto i nomi se per adesso non c'è non nulla. Non li darei nemmeno io in questo. Esatto, no. Io ti ringrazio della domanda, perché mi dà anche la possibilità di esternare un mio pensiero. Io dicevo poco fa che noi abbiamo lanciato un progetto che è stato proposto a persone, ad aggregazioni che in questo momento si stanno avvicinando a noi e su cui stiamo costruendo un percorso condiviso. E noi abbiamo il problema di sfoltimento di una rosa di nomi che già è pronta per la lista in consiglio comunale. Devo dire che noi abbiamo animato un dibattito politico interno ed esterno dove il candidato sindaco è stato lasciato completamente libero e autonomo nel decidere la propria squadra di governo. Mentre per quanto riguarda la lista in consiglio, è chiaro che c'è una discussione avviata su cui stiamo ragionando, ma per individuare più che altro persone di spessore per fare crescere qualitativamente l'istituzione Consiglio Comunale, che diventa importante, perché dobbiamo riportare all'interno dell'istituzione Consiglio Comunale il dibattito politico, che è fondamentale per la crescita di un paese. Noi non possiamo lasciare la politica solo in mano ai tecnici, ma la politica va ricondotta nei giusti ranghi. Su questo percorso l'unica richiesta che ho fatto io al gruppo che sta lavorando è di dare dei chiari segnali di un rinnovamento generazionale, cioè che non significa solo data anagrafici, ma nelle persone, nei visi, nelle espressività, nelle professionalità. E qui ci stiamo riuscendo. Abbiamo individuato tanti giovani, tante donne che faranno parte della lista per il Consiglio Comunale. Di questo veramente sono orgoglioso, perché stanno condividendo il progetto anche una storica lista civica che sotto questo aspetto si sta rinnovando e sta esprimendo nomi di gente nuova, giovane, tante donne veramente che saranno chiamate a far parte di questa squadra, che sarà una squadra unica poi alla fine, i consiglieri con gli assessori. Gli assessori sono rimasti almeno fino a ieri, perché a qualcuno ora, dovendo sfoltire la squadra del consiglio, magari essendo già nella mia testa per far parte della squadra della giunta, magari farò un passo indietro per la candidatura in consiglio, ma che fino a ieri nemmeno il diretto interessato sapeva di essere nella mia testa per documentare proprio l'autonomia decisionale del candidato sindaco Peppe Norata. Il candidato sindaco Peppe Norata in questo senso non è sceso a compromessi con nessuno, ma devo riconoscere che nessuno ha fatto richieste in tal senso, e che aveva minimamente intenzione di fare richieste del genere al candidato sindaco, il candidato sindaco nemmeno l'ha incontrato queste persone, perché abbiamo avuto questa capacità di creare uno schermo al candidato sindaco Peppe Norata per poter scegliere in piena autonomia, senza condizionamento, perché altrimenti non si può governare dal 7 di maggio in poi. Ti posso salutare in un modo, facendo mio un tuo passaggio? Ecco, io sono convintissimo che un comune, una città, un paese va governato con la dialettica e con il dialogo politico. Io questo manco la discuto, però mi permette di dire che va governato con le persone giuste che fanno politica, e il cittadino comune è completamente deluso. Da destra a sinistra non si salva nessuno, perché tutte quelle notizie che vengono da destra e da sinistra, è la sinistra stessa che ha fatto sempre della correttezza il suo campo di battaglia, e tutto quello che noi sappiamo, quando ci ritroviamo di questi ammanchi di soldi, di queste situazioni dove ci sono inciuci, eccetera. Quindi, a mio modo di vedere, è giusto che tutto ritorni in mano alla politica, ma che venga data a persone che hanno un senso culturale della politica e non agli arrivisti, no, a coloro i quali che hanno fatto, caro Giuseppe, della politica un proprio giardinello, con le conseguenze che tutti sappiamo. Giuseppe, i migliori in bocca al lupo a te, che sia una competizione leale, e tra l'altro la persona resterà sempre la persona, il candidato al sindaco è candidato al sindaco, e quindi salutando te ancora una volta saluto Castelbuono, in bocca al lupo, e io penso che avremo modo di risentirci. Ciao Giuseppe. Grazie, crepi il lupo. Proseguiamo con un qua e là, tra una novità e l'altra, ci spostiamo a Cefalù, e ci spostiamo a Cefalù con Mauro Caliò, candidato a sindaco. Mauro, parliamo di queste liste. Parliamo di tutti questi candidati, per carità, ognuno che concorre. Io domenica scorsa ho detto: ma tutti i sindaci vogliono fare? Oddio, uno che mi dice che vuole fare il vice sindaco, dico, va, forse è un'offesa fare il vice sindaco. Però cerchiamo, a beneficio dei nostri radioascoltatori, di analizzare la situazione. Più candidati, più più liste a cosa potrebbe portare? Ad una confusione generale e quindi ancora ricadere in quegli errori in cui si è ricaduto nel passato, perché poi arrivano quelle persone che hanno dimostrato veramente di fare degli interessi che a volte non hanno nulla a che fare con la comunità? In effetti al momento, almeno apparentemente, il quadro non è per nulla semplice. È più difficile forse trovare candidati al consiglio comunale che candidati alla carica di sindaco. A parte il fatto che io sono convinto che sicuramente la rosa si restringerà, sicuramente verranno fatte valutazioni da parte di alcune delle persone che per ora in fin dei conti hanno manifestato una disponibilità, e probabilmente ancora abbiamo parecchio da vedere. Io credo sinceramente che alla fine non saranno più di 5, secondo me. Da cosa nasce questa esigenza, fra virgolette? Probabilmente dalla necessità di individuare un progetto alternativo. Come abbiamo detto più volte anche durante questa giornata, si parte da una profonda delusione della politica, intanto, da parte della politica, nella quale probabilmente i cittadini non si riconoscono più, e quindi si è tentato, ognuno ha tentato nelle aggregazioni che già delle quali faceva parte o delle quali disponeva, anche per similitudini, per appartenenze di categoria, si è tentato di avviare un dibattito, un dialogo per individuare quello che potrebbe essere un progetto che potesse restituire un po' di orgoglio alla città. E così sicuramente da lì si è cominciato a parlare di varie persone, ma che in realtà scaturivano, perché questo penso che sia un passaggio fondamentale, almeno da parte nostra, da parte di Cefalù Possibile, non c'è mai stato un atteggiamento, diciamo, personalistico, non c'è mai stato l'intento di imporre la persona e attorno a quella costruire un progetto. Noi stiamo cercando di fare l'esatto contrario. Poi vabbè, si è confermata la mia disponibilità iniziale, ma quello che noi speriamo di fare è di convincere e entusiasmare di nuovo le persone a prendere parte attiva alla vita politica della città, per poi restituirla effettivamente cioè è necessario riportare il cittadino al centro dell'attività politica, far credere al cittadino che la politica si può fare. E da lì poi la politica si riapproprierà del suo ruolo, perché poi verrà fatta dalle persone che realmente sentono di farlo con entusiasmo e con impegno concreto. Sicuramente il rischio di un po' di dispersione c'è, però l'impegno è proprio quello di parlare con le persone singolarmente, attraverso gli strumenti che voi ci mettete a disposizione, e convincerle a scegliere per la città. Quindi il rischio che magari alla fine possa arrivare chi ha già pacchetti di voto o che per visibilità e altro possa partire avvantaggiato probabilmente c'è, ma in ogni caso noi vinceremo se il cittadino andrà a votare coscientemente, e questo lo vinceremo sia che siamo 50 candidati sia che sono 3. Se il cittadino andrà consapevolmente alle urne, noi avremo vinto sicuramente già una battaglia, e quindi penso che da una scelta consapevole i risultati non possono che essere a favore della città. Peppino, io ti faccio un breve riepilogo, grazie anche al contributo del quotidiano Il Giornale di Sicilia di giovedì 8 marzo, per capire allo status quo la situazione qual è. È scattata la corsa alla formazione delle liste dei candidati per il Consiglio Comunale. Le prossime consultazioni potrebbero far battere il record del 2007, che aveva visto in asce di partenza 11 raggruppamenti con 213 candidati. In vista delle elezioni di maggio, infatti, potrebbero essere 17 le liste in corsa per i 20 posti di Sala delle Capriate. 4 dovrebbero essere quelle che sostengono Croci. Tra quelle che appoggeranno il sindaco uscente Guercio, 2 ciascuna invece dovrebbero averne dietro le spalle la Punzina, Calabrese e Caleò. 1 infine è quella che dovrebbe appoggiare Cusumano. E allora io non proseguo. Mi sono fatto, da ex professore di matematica, un calcolo semplicissimo. l'elettore di sinistra, qua abbiamo anche dei numeri, quanto Curcio, quanti numeri ha preso nelle elezioni del 2007, che sono circa 2000, ovviamente voterà per la sinistra. Però qua di fatto, caro Mauro, ci sono due liste intanto di sinistra, perché ancora gli altri aspettavamo noi il dottore Guercio, ma sicuramente verrà in una prossima occasione. Vorremmo capire intanto se si candida ufficialmente, da chi è sostenuta, perché ancora il PID, Italia dei Valori e l'MPA, da quello che mi risulta, mi posso sbagliare, non penso che si sia ufficialmente dichiarata. Ecco, tu che andrai a votare il 6 e il 7 maggio, o di destra o di sinistra, perché adesso passeremo alla destra, perché alla destra l'elettore di destra deve andare, ricordiamoci che verrà eletto sindaco chi avrà più voti, quindi non ci sarà ballottaggio. Per cui questo fatto delle liste, noi abbiamo il rappresentante della sinistra Mauro Caleo, come potrà influire un domani sul risultato finale? Cioè, dal mio punto di vista, non sarebbe più conducente che due liste di sinistra presenterebbero un candidato, magari uno al sindaco e uno a vice sindaco, è giusto, e poi vediamo cosa può succedere con la destra. Prego, Peppino. Grazie, la domanda è articolata e complessa e meriterebbe ore di discussione, chiaramente, però no, questi tempi non li abbiamo. È chiaro che c'è una frammentazione eccessiva. A mio parere è altrettanto chiaro che non tutte queste ipotesi di candidatura andranno a buon fine, perché secondo me non tutte si concretizzeranno. È chiaro che questo è determinato fondamentalmente da una profonda crisi della politica. Non è che dobbiamo dimenticare che a Roma la politica ha abdicato per un governo tecnico. Se questa non è crisi, di che cosa stiamo parlando? È chiaro che c'è una incapacità della politica di fare sintesi, e questa secondo me è la causa principale per cui poi si arriva a questa eccessiva frammentazione, che a differenza delle altre volte, questa volta riguarda di più il centrodestra che il centrosinistra comunque, perché anche a Cefalù, vediamo, tu dicevi che ci sono due liste di centrosinistra, ma credo, se non sbaglio, ce ne saranno quattro di centrodestra, forse di più, forse anche di perché più. Ora abbiamo qua, c'è pure una lista che probabilmente presenterà anche il consigliere Cortina. Addirittura, quindi. Dopodiché c'è un altro fatto, che le liste, una cosa sono le liste, una cosa sono i candidati, perché ora c'è il voto disgiunto, cioè mentre una volta il voto della lista andava automaticamente al sindaco, ora non è più così, per cui se c'è una lista forte non necessariamente il suo il candidato avrà lo stesso consenso della lista, per cui queste elezioni sono per Cefalù una novità. Per cui per Cefalù sono una novità, per cui ritengo che anche questa, diciamo, novità abbia un po' creato qualche difficoltà. Ma per Cefalù questo è un problema ancora più grave, perché Cefalù, sappiamo tutti, viene massacrata dalle precedenti amministrazioni, con un disastro nei conti, con una difficoltà oggettiva nell'amministrazione, un problema grosso soprattutto a livello di bilancio. Per cui la soluzione di questo problema non sarà facile per nessuno, e quindi se un sindaco non avrà una maggioranza forte e coesa, io credo che difficilmente potrà amministrare bene la città, a prescindere dalla sua appartenenza e dalla sua collocazione politica. Per cui io... Scusami Peppino, Mauro, tu quali voti ti aspetti? dove vai a tingere questi voti? Sicuramente nel bacino di sinistra, oppure pensi che qualcheduno poi nella confusione generale sbaglia e anziché votare a destra Non deve sbagliare, deve scegliere. Bravo Mauro. Allora, noi l'abbiamo detto fin dall'inizio e continuiamo a ribadirlo. Cefalù Possibile nasce proprio dall'idea di parlare alla città. È indubbio che la nostra provenienza è di centrosinistra. Mauro, ci sono le condizioni per fare un'unica lista di sinistra? Scusa se ribadisco. No, a oggi il mio non ci sono ad le oggi non ci sono le condizioni. Non ci saranno, c'è un dialogo aperto per quanto riguarda una situazione che potrebbe far unire le due liste e i due candidati? I tentativi di dialogo ci sono, ma se non si prospettano soluzioni è un dialogo che non porta sì. Scusa se insisto su questa parte. No. Su questa domanda, ma mi sento di dire con una discreta sicurezza che andremo al voto disgiuntamente. Cefalù Possibile chiede il voto ai cefaludesi che vogliono ridare un orgoglio a questa città. Noi ci impegniamo a lavorare per la città, siamo convinti che i cittadini siano tutti, i problemi sono di tutti, le soluzioni devono essere di tutti. Per provenienza siamo più vicini al centrosinistra, Sinistra Ecologia e Libertà ha ufficializzato l'appoggio al nostro progetto, ma ripeto, noi chiediamo il voto di tutti quelli che si vogliono riappropriare di una dignità politica a Cefalù. Promettiamo di impegnarci e di lavorare sodo per Cefalù. Approfitto per dirlo, già bene o male comunque in giro lo sanno, condivido assolutamente il fatto che il prossimo sindaco dovrà lavorare 24 ore al giorno per questa città. Io sarò ben lieto di lasciare la mia attività professionale a una persona che mi ha seguito in questi anni e che sicuramente potrà portarla avanti al posto mio, perché Cefalù deve avere la priorità, perché bisogna lavorare a Cefalù e non solo, perché bisognerà tessere i giusti rapporti col territorio, che sono fondamentali, di cui speriamo poi di parlare, e sicuramente andare anche oltre confine a cercare progetti, finanze. Ecco Mauro, scusami, anche perché tra qualche minuto, lo annuncio, desidero effettuare proprio una intervista serrata con il nuovo candidato a sindaco del centrodestra, appunto il professore Croci, perché anche qua tu con la tua lo posso dire, eleganza che dice con Resigno, hai detto no caro Pino, scegliere, la città deve scegliere, quindi sì. È giusto che per il bene della città si conoscono tutti i candidati. Certo. Mi dici un punto forte del tuo programma a cui pensate di dare priorità, un punto forte. Del resto tu resterai sempre Mauro Caglione, nel senso quel candidato, quella persona, quell'amico che noi conosciamo e che spesso leggiamo, perché indubbiamente le due idee li conosciamo, li leggiamo e quindi sei una persona attiva per quanto riguarda la città di Cefalù, e tra l'altro non sei una persona che dopo l'elezione se ne sta a casa. Assolutamente no. In qualsiasi forma resteremo sul territorio. Che hai fatto. Mauro, chiedere un solo punto quello che tu ritieni, ecco, lui ha parlato, Giuseppe sì. Norata ha parlato di ambiente, dice oggi sì. Senza ambiente non si va in nessun posto, salvaguardia del territorio non si va in nessun posto, l'Ascari è vicinissima a Cefalù e noi giovedì 8 abbiamo vissuto quello che abbiamo vissuto a qualunque livello, ed è una situazione di non facile lettura, perché personalmente la nostra scuola si è messa a disposizione come centro di accoglienza. Guardate che vedere arrivare persone che sono dovute uscire da casa, per vero è che le piogge sono state copiose, che l'intensità è stata notevolissima eccetera, ma è pur vero che dobbiamo vedere perché si arriva a questo punto, quindi ecco, forse il territorio non ne può più, e guardate persone anche di una certa età, anziane che sono state prese dalla propria abitazione perché non allagata di acqua, di fango, la cosa è diversa. Vedi Pino, le foto di Leo, ecco, Leo ha fatto anche su Cefalù News c'è questo scatto, noi lo diciamo, perché sono cose. Era tutto bloccato. Il sottopassaggio, ecco, il sottopassaggio era bloccato e ancora non finisce qui. La strada via Piletto tagliata in due tronconi, ecco. E che non consentiva, ecco, lei ha rovinato, tu hai seguito, che non consentiva ai proprietari e ai coltivatori di raggiungere la propria abitazione, perché era transennata alla penultima traversa, non esiste più la strada, è stata completamente portata, trascinata dalla furia dell'acqua a mare. Oltre, ecco, Leo Giovituso, ripeto, con i suoi scatti, io l'ho vissuta pure in diretta la situazione, però devo dire, e lo ripeto e ribadisco, apriamoci veramente gli occhi, perché ecco, parliamo di tutto e di più, ma salvaguardiamoci il territorio. Prego. Penso che il punto che in maniera migliore può riassumere la priorità per Cefalù è quello della pianificazione. Pianificazione partecipata, e poi spiego subito meglio. Fermo restando che il nostro nome già fa capire un pochettino il nostro intendimento. Cefalù possibile significa che intanto dobbiamo partire dalle cose possibili, cioè a Cefalù si dovrà cominciare a lavorare per Cefalù dall'8 maggio. Ci sono sicuramente da portare avanti grossi progetti, grosse ambizioni, ma il cefaludese ha bisogno di risposte dal primo giorno di governo. Non possiamo dirgli va bene, ora chiudiamo per un anno perché i problemi sono grossi, no, le risposte dovranno essere date partendo dalle cose semplici. Ma sicuramente la priorità è la pianificazione, perché abbraccia tutti gli ambiti. La pianificazione è pianificazione territoriale, quindi dovremo capire come usare, utilizzare e proteggere e tutelare il nostro territorio. Abbiamo un piano regolatore che va assolutamente ripreso, che probabilmente andrà stravolto, rivisto nei concetti, e che deve tenere conto di tutte queste impellenze anche di tutela del territorio. Pianificazione significa capire che sviluppo dare a Cefalù, che impronta dare a Cefalù, significa anche trovare soluzioni per i nostri commercianti, per i nostri albergatori, significa anche pianificare le attività sul sociale, perché a Cefalù di sociale c'è tanto bisogno e purtroppo è uno dei capitoli più trascurati, e per farlo questa pianificazione dovrà essere partecipata. Cefalù ha bisogno di riavere, condivido perfettamente la posizione di Castelbuono e di Giuseppe Norata, Cefalù ha bisogno di riavere il cittadino al centro. Il centro di ogni scelta deve essere il cittadino. Vanno ascoltate le categorie, i quartieri, le parrocchie. Tutti devono poter portare le loro priorità all'interno di un contenitore che poi abbia il dovere e il compito di fare sintesi e di fare un progetto a 360 gradi per Cefalù. Ecco, io prima di salutarvi, una domanda al tuo alter ego, che è qua come sempre accanto a te. Ti faccio la stessa domanda. Ti adopererai per far sì che ci possa essere dialogo con l'altra lista di sinistra? Guarda, sicuramente Cefalù possibile ad oggi ha dialogo con tutte le forze politiche, sia esse di destra che di sinistra, perché riteniamo che la maturità si debba avere dall'8 di maggio, dove oggi noi ci siamo imposti sicuramente, intanto la volta scorsa che siamo stati in questa trasmissione abbiamo parlato di maggioranza e minoranza. Perché? Perché il progetto è Cefalù, non è né la destra né la sinistra. Oggi a centro c'è il paese e i suoi cittadini, quello che sia ben chiaro per tutti, per cui bisogna essere propositivi. Se dovesse, chiunque dovesse vincere, la minoranza deve essere propositiva e non contrastare, fare le solite battaglie che ci hanno immobilizzato quantomeno negli ultimi 5 anni in modo decisivo e drastico. Noi non facciamo per quello politica, non ci interessa farlo in questa maniera. Vogliamo dialogare con tutti, se saremmo noi ci aspetteremo a vincere, ci aspettiamo che gli altri facciano lo stesso con noi. Siate propositivi, così costruiamo. Non deve esistere maggioranza e opposizione, non può essere più, se no falliamo, buchiamo, e bucare questi 5 anni per noi davvero è molto molto importante. Riuscire a migliorarci, da lì viene il rilancio di Cefalù. Di questo ne siamo fortemente convinti, dialogheremo con tutti e saremo propositivi, ci aspettiamo lo stesso dagli altri. Ecco, io intanto ti ringrazio anche per queste dichiarazioni. Volevo proprio concludere per poi passare alla terza parte, di qua e là, tra una novità e l'altra, e ringrazio il professore Edoardo Croci, diciamola come è stata questo incontro. Il professore Croci, proprio io venendo in studio, e Peppino è arrivato pure con me, ho incontrato il professore Croce e l'ho invitato subito, perché riteniamo come CRM che l'informazione non può e non deve mancare. Diceva Calliò poc'anzi, i cefaludesi andranno a scegliere. Per scegliere vogliono capire e conoscere non solo il candidato a sindaco, ma soprattutto chi starà accanto al candidato al sindaco e chi lo sostiene. Peppino, prima di salutarti, perché poi ci sarà un'intervista serrata, io, caro Narata, se ti vuoi proprio fermare, candidato a sindaco del comune di Castelbuono, ecco, mi farebbe pure piacere, o se no ascoltaci anche ritornando verso Castelbuono, perché CRM si ascolta anche, non solo si ascolta, ma si vede soprattutto. Peppino, non ti ho fatto la domanda, me la sono riservata per ultimo. Ma tu con chi stai? Al momento con nessuno. Già c'è stato il segretario del Grande Sud che ha detto che dall'altro lato, dici, sta con me. Ma lui lo sa che non posso stare con lui. Ma in questo momento io credo che, come tante persone, tanti cittadini, stiamo attenti a come si svolge il dibattito, a come si sviluppa, alle posizioni, alle sintesi che si riescono a fare, per poi alla fine decidere quello che convince di più e quello che è più credibile e quello soprattutto che dà più garanzie, che possa dare veramente una soluzione ai problemi della città. Adesso facciamo un pronostico, perché già ieri sera ci è andata male con la Roma e non meritavamo forse manco di perdere. Pensi che di qua alle elezioni del 6 e 7 maggio tutte queste liste, e la domanda che ho fatto pure prima, potrebbero ridursi e contribuire e confluire in meno liste? Io auspico che questo succeda. La politica deve riprendere in mano lo scettro, superare le divisioni, trovare le mediazioni giuste e arrivare a una sintesi. Io credo che a Cefalù si può arrivare benissimo ad avere solo 4 candidati, non di più. Già sarebbero troppi, ma almeno a questo bisogna arrivare, perché l'eccessiva dispersione credo che non serva a nessuno. Ecco, Mauro Caleola. Dimenticavo, scusa, dimenticavo un piccolo particolare, sì. Che c'è pure uno sbarramento in queste elezioni del 5%, per cui chi non raggiunge il quorum non sarà neanche presente in consiglio comunale. Benissimo, e c'è pure un meccanismo che noi dobbiamo conoscere in modo più puntuale. Conosciamo quello di Castelbuono, perché il numero di elettori sono inferiori a 10.000 di abitanti, scusa Giuseppe. Dobbiamo pure capire a Cefalù il sindaco che vince e le liste che o la lista che lo sostiene, quanti consiglieri si porta, perché anche questo è un fatto di governabilità. Molto. Una domanda a Calliò. A Calliò, sindaco della città di Cefalù, su cosa dovrebbe lavorare? Un punto, il primo punto secondo te? Io senz'altro chiederei come intende risolvere il problema del bilancio. Benissimo, allora io vi ringrazio per la vostra presenza, se voi vi fermate ci fa piacere, ma ho l'intervista serrata, non preventivata, col professore Edoardo Croci. Lui già ha raggiunto il nostro studio e io passo la linea alla regia per una breve interruzione. Restate all'ascolto, e non solo all'ascolto ma anche in video, perché adesso CRM vi farà ascoltare la voce del candidato a sindaco Edoardo Croci. Pubblicità. Che convenienza provvida, insieme a tanta scelta e qualità. I

No, non è assolutamente vero. Devo dire che io Bossi non lo conosco, non gli ho mai parlato, però sicuramente, diciamo, no, ai leghisti non sono simpatico, nel senso che la mia esperienza amministrativa a Milano è stata un'esperienza di governo, di amministrazione e non di slogan, e a me spesso devo dire che le affermazioni un po' rozze che facevano i leghisti non piacevano. Chi amministra ha una responsabilità anche nel linguaggio, di confrontarsi in un certo modo nei confronti dei cittadini. Chi rappresenta le istituzioni deve avere l'orgoglio di presentarsi in un certo modo. Lei ha fatto parte della giunta a Moratti, poi nel 2009, giorno del suo compleanno, e qua lo accomuna Vittorio Sgarbi, io domenica scorsa in trasmissione e me ne sono uscito con un'altra battuta, ho detto: vuoi vedere che Sgarbi si è invidiato perché Edoardo è candidato a sindaco a Cefalù e adesso arriva pure lui, perché anche Sgarbi ha fatto parte dell'amministrazione e poi nel giorno del suo compleanno è stato licenziato dalla Moratti. Cos'è che non è andato? Forse con la Moratti proprio no, ma c'è stato qualche grosso problema con la Lega. No, io mi sono dimesso dopo, se si può dire. Sì, mi sono dimesso dopo 3 anni e mezzo di assessore, quando, d'accordo con il sindaco Moratti, ritenevo il mio compito esaurito, ed era effettivamente esaurito perché le condizioni politiche milanesi, con una maggioranza diciamo appunto con alcuni partiti non particolarmente lungimiranti, non consentivano di andare oltre su certi aspetti. Siccome sono un tecnico non attaccato al posto, ma convinto che sia importante esercitare un ruolo quando si può fare qualcosa, d'accordo con il sindaco, ritenni che a quel punto quello che dovevo fare, cioè far ripartire il sistema delle metropolitane milanesi, far partire nuovi servizi come il bike sharing, far partire il teleriscaldamento, cioè l'utilizzo del calore per riscaldare le case senza creare invece emissioni nocive, la limitazione del traffico in centro con misure tariffarie, insomma un progetto ambizioso, aveva raggiunto i suoi obiettivi, e a quel punto per scaldare una sedia non mi serviva rimanere lì, quindi uscì dalla giunta. Poi devo dire invece fece ancora con la Moratti la campagna elettorale, l'ultima, in quel caso ha vinto il candidato del centro-sinistra. Sì, lei scusa se la interrompo. Toccherà a lui andare avanti, spero anche con i progetti positivi avviati da me e dalla Moratti. Professore, scusi se la interrompo. Sì, lei presentò una lista che riportò, se non vado errato, circa 3.000 voti, dove lei non era inserito in quella lista, quindi ha sostenuto la lista Moratti. Sì, io non mi ricandidai, proprio perché ritenevo, chiusa la mia esperienza amministrativa, ritenevo di aver fatto quello che serviva, naturalmente avendo partecipato alla giunta Moratti, ripeto, con una rivoluzione, oserei dire, a Milano, sia sul traffico che sul riscaldamento, su tutta una serie di attività e servizi pubblici. Orgogliosamente rivendico il fatto di aver portato Milano ancora di più a livello europeo e internazionale come città eccellente dal punto di vista anche delle politiche ambientali, con politiche anche coraggiose che magari si erano fatte a Londra, a Stoccolma, ma ancora a Milano non fatte, e quindi decisi comunque di appoggiare la Moratti anche nelle ultime elezioni, coerentemente con il mio percorso, ma ritenni di non, diciamo, di non presentare la mia candidatura. Questa è stata un po' la storia milanese. Però mi piacerebbe parlare un po' di Cefalù adesso, perché... No, aspetti, inquadro la situazione, perché è giusto che venga inquadrata la situazione. Fra le altre iniziative che lei voleva prendere c'era la situazione dell'Ecopass, che proprio questa situazione anche qua ha avuto qualche problema con la Lega. Ma lo citavamo prima, in realtà a Londra, a Stoccolma, in altre città anche del nord Europa è normale avere delle politiche di riduzione del traffico molto forti. In Italia noi abbiamo una situazione con mediamente 60 auto ogni 100 abitanti, circa il doppio di città del nord Europa come Amsterdam, Parigi, ed evidentemente siamo un po' troppo attaccati all'auto. In città, in grandi metropoli come Milano, questo è un problema legato alla congestione, all'inquinamento, da una serie di costi importanti, e quindi a Milano io feci partire un importante piano sia di pedonalizzazione di aree centrali per valorizzare il centro storico, i monumenti, e anche questo Ecopass che è una tariffa, appunto, come a Londra o Stoccolma, che fa pagare i veicoli più inquinanti per entrare nel centro storico. Devo dire che i risultati sono stati importanti in termini di riduzione del traffico e riduzione delle emissioni, tant'è vero che la giunta seguente, la giunta Pisapia, è andata avanti esattamente su quella politica, anzi l'ha rafforzata con una mia proposta, che era di estenderlo nella logica di tassa di congestione, e a questo punto Milano è tra le città europee che può vantare nella battaglia col traffico l'utilizzo di uno strumento di questo tipo. Lei si è laureato nel 1987 in disciplina economica e sociale all'Università Bocconi di Milano. Tra il 91 e il 92 si è perfezionato in economia e management alla New York University e ancora ha fatto parte del consiglio direttivo del Parco Nazionale del Gran Paradiso. Sa perché volevo fare questa presentazione? Certamente, adesso parleremo di Cefalù. Io vorrei parlare di perché, Cefalù. Di Cefalù lei ne ha parlato, perché dobbiamo pure dire che qua lui c'ha lei c'ha le radici grazie a Marina, perché per Del Raime, insomma, è sicuramente lei in estate quando viene a Cefalù discutendo con non solo con i familiari ma con gli amici che vengono da Milano, discussioni ricorrenti le ho fatte pure io, perché vado in spiaggia sul mio lungomare, quello per noi cefalutani è il nostro lungomare, e ho sentito dire: sai Pino, qua di anno in anno noi ritorniamo e c'è qualche cosa che non va, quindi praticamente su talune situazioni. Però io le porto un esempio semplicissimo. Mi dispiace parlare di tempo prolungato in questo momento, anch'io sono un operatore scolastico. E quando si parlava di tempo prolungato tantissimi anni fa, sono scesi quelli da Milano e ci hanno parlato di tempo prolungato, su quello che poteva essere fatto, sul miglioramento dell'offerta formativa, eccetera. Loro lassù avevano le piscine e quindi sicuramente avevano sicuramente investito tantissimo sulla scuola, perché sappiamo benissimo cosa significa investire la scuola lassù, soprattutto per quanto riguarda i genitori che ogni mattina escono. Loro quello che mi vennero a dire del tempo prolungato io lo dovevo riportare alle mie realtà territoriali. Lei ben capisce, non solo non avevamo la piscina, ma in molti casi non avevamo manco la palestra. Cosa le voglio dire? Lei adesso, nel momento in cui ha accettato la candidatura e CRM gli fa i migliori auguri, come all'altro candidato a sindaco e come a tutti gli altri candidati a sindaco, perché adesso sarà il cefaludese a scegliere. Lei, le sue competenze, che sono tante, attualmente è docente? Sì. E lei insegna dove? Io insegno in Bocconi. In Bocconi insegno economia ambientale all'Università di Sud di Milano, ho un corso base di economia. Poi ho insegnato anche all'estero, ma le due materie, diciamo, che ho messo insieme sono l'economia e l'ambiente, che credo che siano utili anche nel contesto di Cefalù, dove il problema è far ripartire e rilanciare l'economia mettendo insieme le forze private, naturalmente la capacità dell'amministrazione di creare le condizioni per gli investimenti e valorizzare anche l'ambiente e il paesaggio, che è stupendo e che per questo va tutelato e valorizzato. Quindi io credo in questo senso di avere un'esperienza amministrativa ma anche tecnica e di conoscenze che può essere utile. Certamente non sono un politico tradizionale, certamente rispetto a Cefalù, come diceva lei, ho un legame affettivo legato a mia moglie, alla sua famiglia, ma io non ho vissuto tutti i problemi di Cefalù. Per questo nella campagna elettorale, credo anche con umiltà, ho detto chiaramente che nel costruire un programma io voglio parlare con le associazioni, con le confraternite, con le parrocchie, con le singole persone, perché ho visto che qua c'è una ricchezza di esperienze, un'identità anche fatta di piccole e grandi cose, cioè dalla cattedrale all'artigiano, che vanno valorizzate, che sono la vera ricchezza del territorio. Ci tengo a dirlo perché naturalmente come candidato, diciamo che via da fuori, almeno in parte, ripeto, perché poi in realtà Cefalù da 15 anni ci vengo tutti gli anni con costanza, ci tengo a dirlo, io non ho nessun interesse particolare qua da difendere, né di tipo corporativo, né di parte, né politica, e questo credo che sia questa fase storica, almeno per Cefalù e se vogliamo anche per l'Italia, ha dimostrato il governo Monti un aspetto positivo. Poi magari fra qualche anno invece non sarà più così, ma credo che oggi questa capacità anche di visione esterna, di visione diciamo più nazionale, internazionale, magari non solo locale, possa dare un apporto positivo a Cefalù. Quindi la mia è una logica di servizio e su questo vorrei che non ci fossero dubbi. Ecco, e nessuno io penso che possa avere dei dubbi. Professore, Cefalù ha bisogno di un sindaco. Ha bisogno soprattutto di una persona che stia accanto ai cefalutesi. Veda, se noi andiamo un pochino indietro nel tempo, senza nulla togliere al dottore Guercio, il dottore Guercio che è partito con una grande foto, guardi, a momenti non bastavano manco i gradini della cattedrale, perché aveva tutte le condizioni, è stato eletto in prima votazione, ha avuto la maggioranza in consiglio comunale, è arrivato da solo, e le dirò di più, per potersi reggere, guarda caso, è andato avanti con un vice sindaco che era stato eletto in un'altra lista, in un altro partito che era all'opposizione. Io la voglio fare entrare nell'ottica del tessuto cefalutano. Simona Vicari nel primo mandato, dal mio punto di vista, ha fatto tanto. Quando poi nel secondo mandato, per impegno oppure per motivi suoi personali, ha un pochino ha avuto accanto dei consiglieri, stia attento, le dico una cosa, ecco, siamo al microfono aperto, stia attento di quello che le dicono che amano Cefalù, di questi diffida. Lei si deve mettere accanto persone che le dicono io vado a Laura, lo diciamo in milanese, per Cefalù, la cosa è diversa, perché sa, io non ero presente ieri sera alla sua presentazione, probabilmente non sarò manco presente alla prossima, ma questi sono dei fatti personalissimi. Questo non significa che non seguiremo tutti i suoi passaggi, perché questo è un fatto importantissimo, anche come lei si sta presentando, perché lei ci sta mettendo non solo le sue competenze, ma ci sta mettendo la sua persona, ed è quanto a dire. Le stavo dicendo, Simona, nel momento in cui, tra l'altro la salutiamo con piacere e con grande stima, anche per le relazioni che ha portato in Senato sulle liberalizzazioni e soprattutto per quella che riguarda le società e i controlli sull'antimafia che sono arrivati da noi in Sicilia, e questo è un altro fatto importantissimo. Nel momento in cui si è messa accanto dei consiglieri, sicuramente qualche malo consiglio l'ha avuto. Lei di fatto è docente a Milano, lei potrà portare qua le sue idee, lei potrà portare, che sono sicuramente delle idee intanto che vengono dalla capitale europea, sono delle idee che vengono da una città che è operativa al 100%, là vanno tutti di fretta e si salutano solamente il sabato e la domenica, perché da lunedì a venerdì si lavora come se niente fosse. Queste sono delle cose conclamate di fatto. Però non dipinga Milano, scusi, adesso lei ci tiene a fermare la mia milanesità, nella città rifondata da Ruggero II e che deve la sua grandezza e la sua storia anche a chi veniva da fuori, troverei ingeneroso pensare che il venire da Milano sia un handicap. Io sono convinto invece che questo mio vedere le cose con continuità, ma senza averle vissute qua giorno per giorno, dia anche quel necessario distacco, diciamo, da beghe locali, da difficoltà e anche da assuefazioni, che invece consenta di dare un contributo positivo. Questa è la logica con cui mi pongo. Dopodiché mi sento fortemente legato a questa città, perché ripeto, avendo comunque quattro figli in cui sangue cefalutano c'è, io credo che se posso dare un apporto positivo, questo sia il vero obiettivo della mia candidatura. Mi dispiace che le sto dando questa impressione, non è così, al contrario. No. Io nel mio lavoro e nella mia vita ho appreso sempre e ho sempre chiesto a quelle persone da cui è giusto che si apprenda, quindi il fatto che lei viene da Milano con le sue esperienze, dal mio punto di vista è un fatto completamente positivo. Questo io glielo dico affettuosamente e senza ombra di smentita, però dobbiamo calare sempre le sue competenze nel nostro tessuto sociale. Quindi il fatto, le ripeto, che lei viene da Milano con queste credenziali potrebbe portare luce in situazioni che a volte non si è state capaci di risolvere. Tra l'altro lei giustamente mi dice attenzione ai cattivi consiglieri, anche nel quello che raccontava prima la mia esperienza milanese, credo di avere dimostrato che quando c'è qualcosa che non mi piace o se ritengo di non poter dare un contributo, non sono certo uno attaccato alla poltrona o che in qualche modo fa giochetti politici, quindi credo che la lungimiranza anche di chi mi ha proposto la candidatura creando una coalizione di forze, coalizione aperta, voglio ricordarla, perché in questo momento noi stiamo cercando di allargare, non di dividere, di allargare su un progetto comune per Cefalù. Credo che la lungimiranza sia anche stata quella di, non sia un caso, di avermi chiesto di entrare in questa partita proprio sapendo che sono indipendente, che sono un tecnico, che non ho una tessera di partito, che non sono condizionabile e non ho debiti nei confronti di nessuno. L'hanno detto, devo dire, anche ieri molto chiaramente sia Simona Vicari e Gianfranco Micicchè nella presentazione, hanno detto che questi sono stati anche i motivi per cui i partiti hanno deciso di fare un passo indietro e chiedermi di scendere in campo come candidato sindaco, e credo che questo sia anche una garanzia, diciamo, che non ci saranno cattivi consiglieri. Poi certo, no, noi le stiamo aprendo gli occhi, perché guarda, ieri sera passeggiavano sul corso di Cefalù, ripeto, non è che io abbia nulla sulla sua, perché noi lo seguiremo al 100%, diceva il suo collega candidato a sindaco, Cefalù e cefalutane debbono andare a scegliere, non possiamo più sbagliare. Non si può sbagliare a Cefalù, come non si può sbagliare a Castelbuono, come non si può sbagliare in Italia, perché ci vogliamo scollare di quei politici che hanno fatto della politica un proprio giardinello che poi ha portato benefici solamente a pochi e sta mettendo in una situazione difficilissima tantissime altre. Ecco qual è il mio punto di vista. Ecco, abbiamo visto ieri sera, io dico passeggiare perché non ero presente, persone che si sono viste nel 2007, dopo il 2007, vabbè, non sono stati capaci di capire quale problema ha il cefalutano, dove si deve intervenire. Adesso prossimamente ascolteremo pure il suo collega candidato a sindaco Sgarbi, perché già nel 50 qualcuno ha sentito dire lasciate le campagne che diventeremo il primo paese per quanto riguarda il turismo. Siamo nel 2012, ancora qualche problema col turismo l'abbiamo, io mi auguro che nei prossimi anni si possa risolvere. Non le stavamo dicendo questo perché, le ripeto, noi stiamo parlando del professore Edoardo Croci, ma non perché è professore eccetera, ma per le esperienze che lei e per le idee che può portare. Sarebbe troppo riduttivo ancora pensare se uno viene da fuori, viene da che vengono però persone che sia. Io le dicevo, lei porterà le sue idee, lei porterà la sua competenza amministrativa, lei porterà quanto di più, ma poi di fatto lei è docente a Milano e molti processi, perché dobbiamo parlare dei processi per raggiungere il risultato, lei me lo insegna, caro professore, non li potrà seguire lei. Ha anche valutato, no, guardi, questo fatto. Ecco, ha rispondo, valutato questo fatto. Le rispondo volentieri dicendole subito che non è così, e questa sua domanda è anche un'occasione di fare chiarezza. Nel momento in cui ho deciso di accettare la candidatura, da persona responsabile, che fa solo quello in cui ha la possibilità di seguire le cose direttamente, ho anche fatto una scelta di vita. Se sarò eletto sindaco, questa sarà Cefalù, diventerà la mia città, e non solo in termini di tempo, questo lo do come fatto ovvio, tra l'altro una casa ce l'ho già dove vivere, non devo cercarmela, grazie al mio suocero, devo dire non solo come tempo e come presenza fisica, in cui ovviamente sarà qua la mia base d'attività, ma anche come impegno mentale, tutto sarà dedicato a Cefalù. Se qualcuno pensa che la mia sia una candidatura di facciata e poi qualcun altro invece governi la città, amministra la città si sbaglia, non è nata così, nessuno delle persone con cui ho parlato finora all'accettare la candidatura lo pensa, quindi sfatiamo questo gossip che capisco che possa far comodo a chi avversa la mia candidatura, ma che non corrisponde alle mie intenzioni. Lo dico qua chiaramente, se sarò eletto sindaco io vivrò a Cefalù e Cefalù sarà il centro della mia attenzione e del mio cuore. Farò in modo che risorse economiche, forze imprenditoriali, forze creative arrivino e si saldino con quelle locali, che pure sono molto forti in termini di potenzialità. La mia ambizione, oltre a un aspetto affettivo, è proprio quello di far sì che una città che ha tantissime potenzialità, negli ultimi anni però non espresse, oggettivamente immobile e a volte anche lacerata, invece queste opportunità le possa cogliere. E quindi, siccome mi piace lavorare per un risultato, la mia soddisfazione la trarrò in questo risultato, e questo richiede di essere presente. Guarda, io sono uno che anche nei miei ruoli precedenti amministrativi, ho fatto tra l'altro il presidente dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, lei non l'ha citato, ma è un ruolo che è stato estremamente impegnativo, avere una struttura. Non posso dire tutto, no, oggi, se no, no, la prossima volta cosa le chiederò? No, però quello, sono partito da una struttura, diciamo, nasceva l'agenzia quindi con nessuno, una struttura che poi ha lasciato di quasi 1000 persone, con un'organizzazione invece ben strutturata. Bene, anche in quell'occasione io stavo in ufficio fino a notte, fino a quando il tempo lo richiedeva. Sono uno che legge tutto, non firma niente se non legge, e quindi da questo punto di vista magari altri possono essere, diciamo, aspirano ad avere una medaglietta, aspirano ad avere un titolo, ma poi pensano che l'attività di governo e di amministrazione, che è pesante, la faccia qualcun altro. Non è il mio caso, io se amministro intendo venire assumendomi tutte le responsabilità e anche la fatica che c'è nel ruolo di amministratore di una città, e quindi vorrei rappresentare in modo orgoglioso e dignitoso i cefaludesi da questo punto di vista. Professore, riprendiamo il suo passaggio. Per Croce dovrebbero scendere in campo PDL, Grande Sud, Alleanza per Cefalù e Urbe. Lei ha detto poc'anzi che nella presentazione di ieri sera sia l'onorevole Michichè, Grande Sud, quindi, sia Simona Vicari, penso a nome del PDL, scusi se dico penso perché sa, qua in 5 anni ci sono stati tanti di quei cambiamenti, parlo dei consiglieri pure che sono andati a destra e a sinistra come se niente fosse, e che poi questo si riflette negativamente su una vita amministrativa, perché lei domani deve sapere su chi poter contare e con chi poter lavorare, questo è il punto forte. Poi per quanto riguarda tutto il resto, guardi, penso che sono situazioni superabilissime. Lei ha detto poc'anzi che i due leader politici hanno dichiarato che i partiti faranno un passo indietro. Cioè, credo ci siano le registrazioni, quindi penso che sia facilmente verificabile. Guardi che sono due sigle di partito, il PDL Grande Sud e poi Alleanza per Cefalù e Urbe, se non ho capito male, sono due liste civiche. Sì. Quindi praticamente lei sta dichiarando oggi ai microfoni di CRM che probabilmente domani la sua squadra potrebbe essere fatta da tecnici. Guarda, io non ho minimamente pensato ancora alla squadra, perché la squadra va costruita mano a mano che adesso costruirò il programma, parlando con le associazioni e con la gente in città, poi cercherò di costruire la squadra più adeguata. Voglio anche valutare e misurare gli uomini, naturalmente non è una sfida vinta, in questo momento le energie vanno concentrate sulla campagna elettorale. Dopodiché penserò alla squadra. Anche qua però mi dà l'occasione per dire subito, perché so che poi sennò le voci maligne girano subito, che non c'è nessuna prenotazione di posti da parte di nessuno. Uno dei motivi per cui ho accettato è stato proprio quello, che non mi è stato posta nessuna condizione, e devo dire che non ci hanno neanche pensato, e quindi ringrazio i vecchi partiti e le nuove forze che hanno deciso di sostenermi, proprio perché mi hanno lasciato questa libertà d'azione che per me è importante. E quindi io non conosco forse pregi e colpe di ciascuno negli ultimi anni, in quello che c'è stato negli ultimi anni, però credo che dobbiamo superare questa fase, perché se andiamo a dividerci dicendo tu hai sbagliato, oppure rinvangare sui dissidi, otteniamo poco. La mia è una candidatura di unità, ripeto, che parte da queste forze importanti, perché deve essere una candidatura seria. Queste forze garantiscono una base elettorale importante, garantiscono una credibilità della candidatura. Qualcuno dice che in questo momento è la più forte in campo, questo non lo so, non sono in grado di valutare, ma certamente è una candidatura forte per quelle che sono le forze che la sostengono. Però è una candidatura aperta anche alle forze civiche, alla città, ai giovani, alle donne, alle associazioni, a tutti coloro che vogliono contribuire. Una candidatura, ripeto, aperta, che vuole unire anche chi ha fatto percorsi diversi in passato, chi si è diviso in passato per diversi motivi. Io credo che Ocefalù trova un progetto comune in cui tutte le forze positive si raccolgono, oppure se ci si va invece a dividere su piccole beghe non si facciano molti passi avanti. È evidente che io, non avendo partecipato alle liti precedenti, non avendo, ripeto, colpe, debiti e neanche crediti nei confronti di questi, rappresento un elemento di equilibrio da questo punto di vista, che è proiettato verso il futuro. Noi dobbiamo essere proiettati verso il futuro, verso far ripartire Cefalù, sfruttare le sue potenzialità, far sì che turisti, investitori arrivino a Cefalù e ci mettano, aggiungano energie locali e energie esterne. Professore, per quanto riguarda sicuramente lei inizia a inquadrare la situazione, però ha detto poc'anzi che personalmente, ecco, non si faccia portavoci, intervenga sempre personalmente, li faccia fare ad altri portavoci, perché sennò poi ci confondiamo, perché già con tutti. Prego, professore. Vabbè, il portavoce non ce l'ho, tant'è vero che curiosamente mi accompagna mia moglie in questi giorni, che tiene la mia agenda, e ancora non ho uno staff, pur avendo fatto una presentazione ieri. Tra oggi e domani penso di costruire, insomma, uno staff, avere degli aspetti logistici, quindi portavoce proprio non ce l'ho, devo ancora dotarmi, diciamo, di tutte le strutture necessarie. Dopodiché sono qua personalmente, insomma, gli ascoltatori stanno sentendo la mia voce. Senz'altro, non solo stanno ascoltando la sua voce, ma le dirò di più, siamo anche in video, siamo anche in diretta, l'ascoltano oltreoceano, e quindi se noi l'avessimo saputo prima, prossimamente diremo pure a Milano, dove c'è i suoi cari, su CRM e per radio potete anche ascoltare l'intervista, perché guarda, anche questo è una questione di immagine, e poi il fatto di parlare e rapportarsi, la comunicazione non può mai mancare. Le stavo chiedendo, sicuramente sta per adesso nel suo contenitore, sta riempendo il suo contenitore di contenuti, i contenuti sono quelli ovviamente su cui dare priorità e su cui intervenire. Indubbiamente sai che noi da tempo viviamo una situazione amministrativa per quanto riguarda le casse del comune di Cefalù, sentiamo dire di ispettori che controllano eccetera, ci sono dei buchi, non riusciamo mai a quantificare che debito abbiamo, ma le ripeto, questo non è una sola questione di Cefalù, è un pochino un fatto generalizzato, per cui per quanto riguarda, ecco, proprio questa situazione cefaludese, perché lei troverà il tessuto sociale, e sto parlando delle persone umili, delle persone indigenti, delle persone che hanno veramente difficoltà, delle persone che veramente debbono stare attenti a come arrivare a fine mese e come fa, di quelle persone che hanno bisogno veramente dell'istituzione, e che l'istituzione venga rappresentata. Ecco, tutto possiamo dire su Monti, non è che sta indovinando tutto, perché però sappiamo benissimo che quando il presidente Monti si presenta, adesso dovrebbe pensare più all'Italia e meno all'Europa, adesso pensiamo pure, vediamo in casa come siamo situati. Ecco, io le voglio dire, la sua presentazione, la sua presenza, stare attenta a certe situazioni diventa un fatto importantissimo, diventa un fatto di continuità, diventa soprattutto un fatto che riguarda la comunità e le radici cefalutane. Mi creda, in questi 5 anni siamo talmente divisi tra di noi, come se non avvenisse da tantissimo tempo. Qua vogliono fare tutto il sindaco, lo dicevo e lo ripeto, nessuno vuole fare il vice sindaco. Allora io comincio a riflettere, ma che cos'è? perché non ci si mette d'accordo? Se noi ci mettiamo d'accordo su un programma comune, lei pensa che a me può interessare se il programma viene portato avanti dal professore Croce o dall'amico Mauro Caleò o da Rosario Lapunzina o da Franco Calabrese, eccetera. Ecco, queste divisioni, tutte queste candidature che possono essere pure un bene, ma questo poi lo verificheremo dopo le elezioni, non l'hanno pure fatto riflettere? Indubbiamente c'è una situazione lacerata e complessa su Cefalù, fatta anche di divisioni personali, di immobilismo che c'è stato negli ultimi anni, e certamente mi hanno portato a riflettere. Quindi io l'ho detto sin dall'inizio, ci ho pensato a lungo prima di accettare la candidatura, ho visto che c'erano le condizioni di indipendenza e anche di forza, lo dico, per partire. Ma in questo progetto voglio aggregare, non dividere, per cui mi dispiace se ci sono delle candidature chiaramente minoritarie e frazionistiche. Credo che invece qua bisogna avere dei progetti chiari, magari anche alternativi, ma che uniscano. Il processo di candidatura non è finito, quindi può essere anche che ci siano delle riaggregazioni di forze, e spero che questo possa avvenire. Quello che lei diceva è fondamentale: siamo in una crisi economica nazionale e internazionale che l'Italia ha patito, tutta l'Italia, non solo la Sicilia. Oggi Monti è riuscito a fare molto, magari qualche passo l'ha sbagliato, qualcuno l'ha fatto giusto, ma certamente ha evitato un tracollo del paese, questo deve essere chiaro a tutti. Cefalù nel suo piccolo è a rischio di tracollo finanziario e credo che abbia bisogno di una piccola cura Monti, se così vogliamo dire, ma di una cura Monti attenta a tutte le categorie. Da quello che ho visto ci sono difficoltà anche economiche di alcune parti della città. Sono stato nel quartiere Spinito, ho parlato con il parroco, ho visto certe situazioni, ho visto come la pesca stessa subisca tutta una serie di limitazioni, cioè mi sono reso conto di una serie di problemi di diverse categorie estremamente gravi. Qua ci vuole un'amministrazione presente, l'amministrazione deve essere presente per garantire la possibilità di lavorare, prima ancora di dare nuove opportunità al lavoro, che certamente sono importanti, per garantire la possibilità di lavorare a chi un lavoro ce l'ha. E quindi da questo punto di vista credo che questo impegno anche sociale, ma inteso come dare opportunità, come dare servizi e dare opportunità, sia una delle priorità della prossima amministrazione. Oggi c'è un'amministrazione pubblica, una macchina amministrativa che tutti mi dicono funzioni poco, non per colpa delle persone, ma evidentemente perché non si è riusciti a creare un'organizzazione che invece funzioni e sia al servizio della gente. Per far funzionare. Posso, professore? No, prego. Siccome insomma viviamo nello stesso. Sa cosa mi ha detto una volta una collega chiamandola in presidenza, e qua mi rivolgo al personale, ho detto: sa, professoressa, gratifichiamo questo ragazzo, eccetera. Mi ha guardato e mi ha detto: preside, ma a me chi mi gratifica? Cioè, caro professore, ci siamo capiti a volo, anche la macchina burocratica, ma questo personale, ma le motivazioni di questo personale, ma chi gliel'ha detto? Lei ha fatto male, lei ha fatto bene, eccetera. Sì, seguiamo le denunce, seguiamo questo, seguiamo quell'altro. Ma chi gliel'ha detto? E cercare di tirar fuori le loro motivazioni e sentirsi responsabile di un settore, di un'attività, di un ufficio che dirigono, renderli autonomi. Ecco quando poc'anzi le dicevo, professore, e me ne guarderei bene dal dirle il fatto se viene da me, poi lei viene pure da New York, quindi si figura un po', ecco, quindi forse abbiamo, sì, ecco, stiamo mandando in onda anche in questo momento l'intervento della senatrice Simona Vicari, che noi salutiamo, no? Ecco, non c'è l'audio perché l'audio ce lo prendiamo noi qua, e le stavo dicendo, professore. Ecco perché poc'anzi io le dicevo: ma guardi che le situazioni vanno seguite step by step, le situazioni, ecco, hanno bisogno di questo punto di riferimento. Io desidero, Dio da cefalutano, desidero guardare lei e gli altri candidati negli occhi, perché caro professore, lei troverà a Cefalù tantissime di quelle menti libere che nel momento in cui intravedono determinate situazioni, guardi che poi veramente sapranno scegliere il candidato che potrà portare Cefalù a quei ruoli che competono questa città. Poc'anzi c'era il candidato a sindaco di Castelbuono, che anche lui, come tutte le Madonie, guardano Cefalù come città trainante. Guardi che noi siamo passati ad una città, e le porto un altro esempio, e mi dispiace parlare di scuola dove io non vorrei mai parlare. Dal primo settembre noi avremo un comprensivo a Cefalù con più di 1300 alunni, quando ci si poteva stare più attenti e capire e avere attenzione per la scuola, perché lei mi insegna, quando si creano delle megastrutture poi non è sempre facile. Le sto portando un esempio che riguarda il mio mondo al quale sono legato e che amo, che è quello della scuola e quello dei ragazzi. Cioè, le voglio dire, siamo veramente delusi e depressi, ma non perché il sole adesso lo dobbiamo andare a prendere al nord, perché qua c'è sempre pioggia, ma perché ci troviamo talmente disorientati e ci hanno fatto talmente disorientare. Allora in cosa fidano le persone libere di mente? Che dal 62, che l'istruzione è obbligatoria, vadano a scegliere quei candidati che porteranno veramente avanti le esigenze e i bisogni della comunità. Siamo stanchi di vedere gli arrivisti e coloro i quali si presentano in altre situazioni. Dovete essere chiari e dovete parlare in modo chiaro. Dovete prendere 3 punti di programma e portare avanti, perché io desidero un domani guardare lei, guardare Galeò, guardare la Punzina, guardare Calabrese. Abbiamo bisogno di questo. Che poi lei è un politico, è un tecnico, io sono che i problemi li deve risolvere la politica, ma la cultura della politica, caro professore, quella che noi abbiamo perso a qualunque livello, a destra e a sinistra, mi perdoni questo sfogo, ma siamo tanti cefaludesi con la mente libera che vogliamo persone giuste al posto giusto. No, ma guardi, io la ringrazio, perché in effetti in questa intervista lei mi ha anche dato molti suggerimenti, è andato forse, diciamo, anche al di fuori, anche al di fuori del ruolo di puro conduttore, però questo naturalmente mi fa piacere. Io l'ho detto, pur conoscendo Cefalù da almeno 15 anni, ci passo 2 mesi all'anno e attraverso gli occhi naturalmente di mia moglie ne ho una conoscenza invece più approfondita, però io ho bisogno di parlare con le persone, con le associazioni, e quindi tutti i pareri che mi arrivano per me sono utili. Poi citava un tema che mi sta a cuore, ovviamente quello della scuola, dell'istruzione. Naturalmente qua il comune non ha la responsabilità diretta dell'erogazione della formazione, però può fare molto. Ho sentito ad esempio che nella scuola media da poco hanno tolto il tempo pieno. Qua il comune dovrebbe intervenire, il tempo prolungato, sì. Il comune dovrebbe intervenire, perché questo ovviamente per le famiglie, pensiamo alle donne che lavorano, è un problema enorme. Quindi si tratta di avere un comune presente anche nei confronti delle altre istituzioni per garantire che le cose funzionino. Bisogna ricostruire un tessuto sociale, partendo dalla macchina comunale, ma poi allargato agli imprenditori, ai lavoratori, agli studenti, a chi un lavoro non ce l'ha, con un obiettivo. In questo momento io vedo una città un po' persa, a volte un po' anche sfiduciata forse per gli ultimi anni, ma con le energie, le capacità che ci sono in questo luogo bellissimo. Lei citava prima le Madonie, questa è la porta alle Madonie. La porta alle Madonie vuol dire che bisognerebbe creare dei percorsi in cui tutti quelli che arrivano alle Madonie passano per Cefalù, e Cefalù fa sistema con il resto delle Madonie, gli altri fanno sistema da soli, Cefalù è un po' assente. Anche qua va ripresa, è la porta delle Olie, cioè è la porta se vogliamo anche della cultura e della storia di quest'area. Tutte queste cose hanno un valore, bisogna crederci e bisogna lavorare per questo. Poi non sarò io da solo che arrivo e rimetto a posto le cose, io posso fare da leva, da fulcro rispetto a queste energie. L'ambizione è questa, sarà un lavoro duro e pesante, però nel momento in cui ho deciso di candidarmi, ho accettato di candidarmi, evidentemente vuol dire che questo sono disposto a farlo. Adesso ci sarà la fase normale dello scontro politico. Se sarò eletto sindaco, poi potrò passare a una fase, diciamo, in cui tutto il mio impegno e le mie energie invece saranno dedicate in positivo a questo. Allora, prima di salutarla, perché già le ho fatto perdere a mezzogiorno la Santa Messa, non le vorrei far prendere il pranzo, perché come lei sa, in Sicilia ormai la sua signora Guarda, il pranzo può farmelo perdere, l'importante è che non mi faccia perdere i dolci. Siccome sono un goloso, basta mi faccia perdere i dolci. Noi stiamo concludendo. Volevo concludere in un modo. Lei ufficialmente è stato presentato ieri alla cittadinanza. Sicuramente anche per le sue dichiarazioni che ha fatto oggi sarà un sorvegliato speciale. Ecco, voglio chiudere con questa battuta. Le formuliamo i migliori in bocca al lupo. Ha parlato lei, adesso giustamente, sicuramente gli elettori si aspettano lei che tipo di indirizzo, che tipo di autostrada desidera seguire e con chi desidera seguirla. Professore, grazie per l'intervista, avremo modo di risentirci, avremo modo di riascoltarla. Le formuliamo i migliori in bocca al lupo perché lei sta mettendo la sua persona a candidato a sindaco come tutti gli altri candidati a sindaco e siamo tutti convinti che una competizione leale potrà portare sicuramente a risultati positivi per il bene della città di Cefalù, perché ne ha tanto di bisogno. Ha bisogno anche di calore umano, ha bisogno anche di contatti, ha bisogno anche di vedere persone che hanno determinate responsabilità accanto ad altre persone che hanno tantissimi bisogni. Grazie, un saluto anche agli ascoltatori, arrivederci. Termina qui, qua e là, grazie Fabio, l'abbiamo fatta lunga ma ne valeva la pena, qua e là tra una novità e l'altra, ringraziamo i radioascoltatori e da Pino Simplicio un grazie a tutti gli ospiti che sono intervenuti, buon proseguimento di domenica, grazie a Fabio e grazie all'editore Angelo Arduino. Da Pino Simplicio una buona domenica, grazie. Abbiamo trasmesso qua e là tra una novità e l'altra.